sei bagnate, profumo di caffè. La vita sorride, sta intorno a te. Quanta pace dona il mare, con le sue onde, a chi silenzio sa ascoltare. Scalda e rallenta.